lascio, ti lascio male, ti faccio, spaccio, caccio, cracco, sta crocca come fossi chef cracco, tiro l'arco contro il bersaglio, tu sei un cazzo di poser che si prepara al freestyle a casa, contro le mie spose non devi alzare neanche un dito, overdose di questa che ho digerito, rimango qua come fossi un marziano dallo spazio, chissà cosa riserverà questa canzone qua, quanti colpi devo sparare in aria chissà, prima di beccarti, fissarti al tavolo e calpestarti e darti una nuova visione, amati invece di fare la guerra contro tutti, amati invece di fare la guerra contro tutti, e se piangerai questa è la mia metà, piangerai sulla mia metà, su ciò che tiene viva la mia anima, e te la scopperai bastardo sopra ogni mia rima, e trema la terra tutta, rimango gesuita nel mio disperdermi tra la gente, tra la truppa. Fango Gesù ora, fango Gesù ora, crocifisso sopra la sposa, crocefissione con alle spalle una sposa. Rimango qua con mie fra a frissare dall'altro mondo, chissà che qualcuno mi ascolterà. Questa voce non ha più voce, fa pietà. Rimango qua in mezzo a drammi e grammi, chissà. Psycho frammentato di questo orgoglio, questo ego smisurato, e avrei bisogno di un dottore migliore che controlli e faccia il check-up di ogni mia canzone. Cosa c'è nella mia testa non lo so, uno sparo, un rimorso, un morso, non so, al dorso porto brividi mentre canto una canzone, spostando anche un orso, da davanti divento una belva, non metto più i guanti, prendo sangue sulle mani nella selva, dove vorrei sopravvivere, vivere. Faccio questa freestyle da poco tempo, ma lo senti sul microfono come fa, come spacca questa roba qua. Spacco tutto, invitami alla prossima session, fai una brutta figura, farabutto. Già scritto, non ricordarmelo che vivrò nell'eterno, rimorso di non essere mai stato capito in vita, o forse mi troverò